è qua l'ingresso di Punti. Dove sei? L'ingresso di Punti, capito? No, nemmeno, sì, ingresso di Punti. Sono da casa. E poi con l'antenna stazionaria ne aveva? Sure. tutto. Un accenno santo, non vuole al barracchino, alla giornata. Ho sviluppato più oggi che in tutta la settimana. Io posso immaginare. Claudio, abbiamo visto un cane corso, che bello, che c'è una femmina, ma bellissima era. Certo, non c'è, ma il cane corso è grande, è un cane diverso dal mio. Lui è dormito, alla stasera. Quando si sveglia me lo fai vedere, lo porti a casa a vedere. Ma non ultimo. Quando vuole, quando lo... c'è quello, c'è il cane, c'è, lui non è molto amante del camion, è un po' più veloce, se no oggi non scendo a pettare l'antenna, l'avrei portato, però l'avrei lasciato, perché bravo, mi c'è rimane dentro casa, capito? Però tu c'hai già il tuo, è un casino. Ciao, la fortuna, sorella, Filippo. Ehi, anche lì. Com'è, giornale di altro. Oh, gli altri io che fa, madre di Dio, se me ne vado da di là non vedrò. Uscio, che 5 mi sono fatto fatti, ma stanno dietro, quella primavera a me, mamma mia, mi come la costiglia. L'ultimo sono un mediore, insomma. L'ho staccato la mezzogiorno a luna, e boh, ma proprio... mangiare una cosa veloce e poi abbiamo riattaccato fino alle 4 e mezza. Fino alle 4 e mezza. Capito? E poi sono passato, sono messo la macchina, è partito. E, bella giornata veramente, proprio maniche corte oggi. Nel rubato burra, la felpetta, maniche corte, proprio. Bellissima giornata, però domani è andato un po' nuvoloso, sole e nuvole, mentre oggi è proprio tutto sole, bello aperto. Siamo andati stamattina, già l'abbiamo visto perché siamo andati a fare delle commissioni con Concetta e già l'abbiamo visto, era una bella giornata, sì. Bella, poi c'è il piano di campagna, quindi... tutto si sentiva bene, l'aria calda, il profumo della primavera. E vabbè, dovrebbe iniziare adesso il tempo bello, dai. Però stavo guardando il meteo domani, è un po' più nuvoloso. C'è il sole, però anche le nuvole. Capito? Mentre oggi era completamente aperto il cielo, bello. Ma già da stamattina si vedeva che era bello. E infatti. Sì, parzialmente nuvoloso c'è scritto, parzialmente, quindi sì, ci sono queste temperature di nuvole, con giornata aperta, bella, e vabbè, questa devo fare, ma non mi faccio un po' di cose, ti ho lasciato indietro. Perché prossima settimana sono anche in un'altra zona, ovviamente zona mare, zona Isola Rossa, quindi speriamo che sia bel tempo, perché lì quando fa freddo, un bel freddo anche lì, Trinitaro, Urto, quelle zone di alte, oggi la zona bassa, Murfi, Tieto, insomma, sì, in zone basse, mercato e capito dove scendeva e dove si è arrivato a zona sua. A supermercato l'ho sentito quando era arrivato al supermercato che cosa al supermercato che doveva prendere la moglie lì fare un po' di spesa dovevano e si è entrata un po' sì, stava la mia città mercato. La posizione lì dell'antenna è ottima, ottima. C'è già grandi risultati con quella, figurati. Ci vuoi, se non vedete, un chissà, la macchina, figuriamoci con la. di una telefonata, la linea di telefono è tutti. No, ma di solito le aziende quando spediscono ti mandano un'email che è venuta la spedizione, capito? E tu te la puoi seguire, ti danno il numero della spedizione e ti dicono qual è il corriere e tu ti puoi seguire il tragitto, sai dov'è, capito? Se è già arrivata per dire a Sassari, se stanno smistando, se è a Cagliari, puoi sapere tutto, capito? Sì, lo so, ma non mi preoccupo più di tanto, ma adesso dovrebbe essere qui mercoledì la cosa. Sì, allora sarà domani, sicuramente arriverà domani. Va bene, va bene. Marco, non si è sentito? No, negativo, non ho sentito nessuno, no. Sarà bella giornata. Giulia, bella giornata, magari ce ne sono usciti. Mamma, mi farò un giro. Bella giornata, anche adesso, e sì. 6 meno 5, ancora c'è il sole pieno, sì, è una bella giornata, a casa. E quando magari sei uscito già c'è il baracchino in macchina, si fa sentire? Certo che sì, per forza si fa sentire, ma già siamo qua. E te che ballacchi. Pubblico manager andà a ridersi della sera lì, che deve fare l'esercizio del ticket, mia moglie. Linam, dove è il tempio? Ehi. Vai presto, se no non trovi posteggio di me. No, non c'è posteggio, non è che verrà niente a ira, si va di ghiaccio, prima che apri e si è rottito. Questo è andato, bigliettino, aspetti che ti chiamano, sì, adesso in quel posto in particolare, maledizione, che purtroppo è così, un sacco di gente c'è, ma l'Inps, io quando passo per andare al lavoro, la mattina che passo lì davanti all'Inps, e così adesso abbiamo cambiato l'aria, sto scendo prima, mezz'ora prima, ma prima quando entravo alle 7 e mezza passavo in giro alle 7, ma qui vedi, mi dai a ieri pure ai zitelli. Ehi, ti ha messo poco meglio, ti ha aiutato di venire avanti. La cucina, da tutti gli occhi, un casino, dove? Metto qui e ti sento alloggio. Ma c'è l'orio, è sempre pieno ieri. Sì, è proprio così. Sì, tutte le mattine, niente, chimi, già alle 7 mattine, si barriera bene all'otto, alle 8 e mezza, poi sportelli, non so, ma c'è gente da presto, molto presto. È un macello. Allora, ciao Giuseppe, buonasera, il produttore non lo sente, Natalino fa un po' di ossente, ancora un po' di pazienza, poi vedrai se lo senti, e io. Giuseppe Alghero, Natalino, ti saluto, non ti accoppia. Manco io sento a lui, ma tra un po' speriamo di sentirlo e di poterlo salutare appena mi ha chiesto l'antenna. E già lo senti. Non ti preoccupare, che già lo senti, alla grande lo senti. Va bene. Sono in noia, ragazzi. Sono appena leggeri, a gamba l'otto e mezzo. Grazie, no, è modulato l'orario. Prima, cazzo, stavamo tutta la sera, cazzo. Modulendo, mamma mia. Di noi, veramente, modulava di noi tutti. Lo so. Finiti, siamo contenti, Natalino. E cosa ci puoi fare? Adesso mi do chiacchiere, poi ci c'è, la sera è finita. Già di sì, ancora un'ora e mezza, 7:30, ci stiamo al campo. Quelle 8 ci c'è, no? 8:15, 8:20. Una volta che alle 8:30. E poi niente, dove va? E poi si riprende, e domani un altro giorno, e si cadrà. Esatto. Attento Marco Condor, ratta pignara. A me mi pare di sedrumi. due coperte, al garbuccio, e via, ci mette il coccolami, c'è da domani a mangiare. Minimo. Sì, no, sta in testa, un bacio allucinante. Ho resistito perché poi dopo pranzo mi distrai un pochino, no? Invece io ci gioco un ammaiato, ho fatto tutta una tirata, poi quando pranzo, il freddo a luna, c'è anche il caldo, ho voluto come dire l'acqua oggi. E vabbè, cosa ci vuoi fare? Poi non è Giulia dopo pranzo. Io faccio anche io, quindi non ti preoccupare, quando era la tua parco. E mi dico che mi usava di mi giocava a cavagliare. E io proprio lo so, ho fatto la domenica. Adesso ho fatto due domeniche, adesso dovrò fare due sabati sicuramente. E quindi due domeniche libere. Poi c'è Pasqua e Pasquetta, vediamo. Se mi tocca come l'anno scorso mi ho lavorato a Pasqua, del libero a Pasquetta, non me ne ammetto. Ma non mi sa, mi tocca a Pasqua e Pasquetta a cavagliare. E l'entrata è riuscita a divergere le mamme, a te immaginate, prima l'entrata la volevo fermare e poi all'uscita. Io non ce l'ho. Comincio alle 10, fino tutte le mattine alle 7, e poi all'1:25 adesso usciamo, capite? Prima tanto che scendo in un quarto, le 2 di tempo ci sono a fare, da martedì e venerdì alle 5. Alle 5, alle 17. Gaiette, gaiette. Ehi, anche noi, martedì e venerdì. Due e mezzo, due bocce. calma totale, ragazzi. Non è entrato nel rapapigliano, nessuno ha sentito. Io per loro la mattina mentre già entra sul tardi quando si riposa. Marco già entra un po', se non è dormito è uscito, se non è uscito è morto, faccio un giro, ti invita lì, perché stavo lavorando, se no sarei uscito sicuramente andare a farmi un giro. Ma no, non so, non c'è proprio la pannuta mia. Sento del QRM, no, non è un QRM, è un QRM A1, cioè 1, 2 neanche. Avevamo mollato. E se non c'è qualcuno che sta parlando in qualche altro canale, quindi te lo porti dentro, ma io non sento nessuno. Qualcuno vuol dire entra. Allora, qua. Io ho sentito un bicchiere. Sì, sarà anche se asciugamani, noi ovvio. Andà bene, Veda. Va bene, sì. Sto guardando gli altri, ma non si muova. Sì, bella via. Ma quel porta non mi è arrivato niente, stavo guardando. Mi è arrivato solo il coso che sta pigliando lì di là. Non ci ha pigliati, però per il petto di solito tutte le aziende mandano un'email dove comunicano al cliente la venuta spedizione e allegano il numero della spedizione in modo che tu via internet puoi seguire il tragitto, capito? Sì, vabbè. Adesso se tu fai cos'è, se ne fai una telefonata adesso. E vabbè, se non ti hai telefonato vuol dire che ti fa posto. Ma vabbè, non Brescia. Ma vabbè, non ci sono a Brescia. Con calma facciamo tutto. E te credo. Poi ci vedrà. Ci vedrà. E quindi cosa metti quella piccolina in macchina, l'antenna? Quella lì la lasci dove è? Ma non lo so, bisogna essere belle. Perché se quella lì la dobbiamo mettere sotto nel piantone bisogna prendere un'altra staffa, Paolo. Io ne ho una solo, una mi serve per ancorare sopra, capito? Quindi decidi in modo che poi si prenda un'altra staffa, Paolo. E vediamo un po'. Sì, intanto ci rifugiare con le staffe che stanno a fisserino. Ti voglio una e te la metto su, agganciare in linea l'altra staffa. Mantenere fermo gli ultimi 2 metri, diciamo, gli ultimi 3 metri, capito? Ci interessa molto quella che così è ancorata, siamo a posto. Tutto sotto non c'è bisogno ancorare niente, perché il tubo, il piantone che metto io è tra giusto e giusto in quella, rimane piantonato lui, non andando in lungo. Sì, infatti, poi vediamo. Allora, qui Natalia, avremo più posto nei tubi, eh? Nei tubi che l'antenna, questo è più i tubi che avremo, i telescopi che avremo, che l'antenna. Quanto è il tubo di telescopico? Quanti metri è quello? Da 6 metri? Stavo mettendo le cuffie a mia moglie per sentire la televisione, se no gli ho fatto il baracchino. Ah, ho capito, quello senza fili, certo. No, quello del filo, bisogna andare a compro senza filo. No, quello senza filo. Con la televisione, quando è cucata, tanto vicino alla televisione, l'ho visto. Loro senza fili sono vaccini, ci vai buttani, funzionano bene, io ce li avevo, quindi avevo un momento di raggio posto, io non mi ricordo, ho sigillato qualcuno, non so, c'è l'unità, e io ci metto, e con quello puoi girare nella casa, ecco la musica, ecco la televisione, no? Non venisci, non hai capito, 9.10, altri due, sono quelli che porto io, e tutti i millimetri, e già te ne pari. Per questi sono quelli, questi c'era il, questo pianto anche a 8.8 io, dove c'era il sistema delle direttive piccole. Quando non c'è, non è entrato ancora. No, negativo. sentito ancora, o è calamaiato, o è uscito a pigliarsi lo gioco a mettere i dirighetti. Infatti magari sarà così. Sei un attimo, faccio la tua di bianco, sto arrivando subito. Cammina che mi devi dare un'informazione. Dimmi, dimmi, dimmi. Guarda a vedere quanto ti arrivo. 9 più 20. Figurati, a te, 9 più 20. Con baracchino si andano, a me 9 e 10 mi arriva con 4 e 40. Sono con me, non c'è nome, c'è nome in questo momento. L'altro scendo giù con la zona della barca, la barca. Ma la radio, non toccare la bugia che stai andando benissimo. Alla grande. E infatti non lo sto toccando, è sempre così com'è. Vediamo con un secondo, già che è venuto subito. Anzi, dica a Marco sembra che c'è una persona che mi interessa con un attimo di euro, magari con 40 canali, quello che è. Vabbè, hai detto, no, non ti arrivi così, guarda là, immagino che ti ha dato buona antenna. E io non c'è neanche bisogno di essere così. Sì, ma c'è il segnalone già così, con l'antennina. E Antonello è dietro di me, però ti dà lo stesso. Sono 20, è un bel segnale, un piso antenna. Se consideri da 30 casa, arrivi che zinco, no, che fate un conto. Adesso sì, 9-10, e questo è reale perché è stato anche tarato e messo tutto a posto questa radio, è stata revisionata anche la ricezione, smettere tutto, capito? Quindi magari lui è un po' più generoso, però è un ottimo segnale per quell'antenna qua. Aspetta, ti faccio sentire perfetta, bella appiccicata. Bella, bella veramente, bella, bella, bella. Ah, ecco, non stavo uscendo con 5 watt. Ehi, sono qua, sono nel cielo. Ma cosa non stavo uscendo con 5 watt? Come? Col primo che stavi modulando, non stavi uscendo con 5 watt. Come la c'è 10 watt? Ah, ho capito. Ma sei ritornato al primo? Sono rientrato. Ciao, Clara. Ehi, ciao, io, buonasera, ben sentito. Stavo a mangiare il cucciuccio. Ehi, ehi, ehi, ha già capito. Stavo andando a mangiare il cucciuccio. Ehi, non riesco a mettere il, 40, 40, il canale 45 qua. Ci sono vicende di capo. Lo devo dire, lo devo richiedere a Antonello. Come? Devi mettere nel canale 5. Nel canale 5 e poi girare la banda più 1, 45. Sì, ma lo volevo mettere in A, B, C, D, V. Qual è la banda che c'hai adesso? Adesso mi viene male guardare che sto guidando. Se c'è l'A è la banda principale, quindi devi mettere la B per salire, capito? Però devi mettere sul canale 5 perché fa più 40. Quindi 40 più 5 è 45. Ah, così è. Va bene. Tu quando cambi banda, esci nella banda normale, metti più 40, inizi nuovamente dal canale 1, 41, 42, 43, 44, 45, capito? È così. Il 10 sarà il 50, il 9 sarà il 49, il 48, il 47, il 45, devi mettere sul canale 5 e spostarti dalla banda su più 40. Ma perché c'è la lungo mare? Sentivano in lontananza, forse c'era un po' di propagazione e stavo provando, ma non ci sono riuscito. È molto semplice oggi, molto semplice, capito? Devi mettere sul canale 5 e girare la banda più 40 e quindi dirà 45. Se metti sull'1 sarai sul 41, sul 7 sarai sul 47 e così via. Allora Eugenio, mi dicono che la regia deve mettere banda E e andare con la manopola dei canali, quindi banda E e poi mette sul 5 e sei sul 45. Ok, la banda E, ho capito. Esatto, capito. La banda E ti porta più 40, quindi inizi dal canale 1, 41, 42, 43, 45 fino a 80, che sarà il canale 40 del tuo display. Tu metti sul 40 e sei sull'80, capito? Perché non tutti gli apparecchi sono precisi, bisogna vedere su che banda è. Banda E, la banda E. Come super Eugenio, la furgone, sono sulla banda E io, e sono sui 10 dal mare. Io per andare sul 45 devo andare sulla banda S. Sì, ma tu quante bande c'hai? Eugenio si deve venire in due. Allora, Eugenio dovrebbe avere A, B, C, D, E, F. Tu dovresti avere anche la G. Oppure lui c'ha la E, A, B, C, D, E. E, 5 bande. E tu c'hai la F, 6 bande. Così è. Controlla, Natali, quante bande c'hai? Tu 5 o 6? Aspetta un attimo che le faccio andare. No, i tappini che c'hai tu non te lo segna, A, B, C, non te lo segna. E io non conosco quel baracchino che c'era oggi. Mi richiederà Marco, comunque mi hanno detto dalla regia che tu devi andare a mettere banda E e mettere sul canale 5. Fino alla banda G arrivo io. Figurati, quindi come ti vai a se uguale allo Giulio. Lui c'ha A, B, C, D, E basta. Quindi la banda E è praticamente inizia la banda in alto. Bombardier sulla banda E, e lei vuole essere sulla F. No, lui non è sulla E adesso. Lui non è sulla E, è la banda prima. Sulla E va più. Bisogna di lì. La banda E è più va. Non vedo come quel bacchino, io non lo conosco. Sono quelli che per andare in questo canale qui devono andare sulla banda G. Guarda, non so, si deve fermare e controllare che banda è. Comunque, per andare nella... No, mi ha mandato un messaggio, ce l'ha capito. Per andare più 40 devi mettere banda E e canale 5. Se la manda sotto là. La banda di Diego, allora. Lui sicuramente sta mandando la banda di posso dire che andare nella F. Sì, questo non è ama, no? Quella per le bande, c'è un passivo per farlo salire, capito? No, è bello quello, è bello, già lo conosco, sì. Avevo visto la Sandro. Avevo visto la Sandro, sì, molto bello quello. Omega Frost, che praticamente è uguale al Magnum, è sempre tra Magnum. Eia, qui c'è scritto S45HP. Esatto, Magnum S45, sì. Invece il Magnum S49, è matricolato qui, capite? Perciò lo fa la stessa casa. Eia, esatto. Tu dici una bella. Sono tornato! Cosa? Sono tornato, me ne sono sceso a fare il gasolio. Via. Devi guardare in che banda stai trasmettendo, se stai trasmettendo nella banda D tu. Per andare su devi mettere nella banda E. Come mi fermo se vuoi circolare? Dai. Guarda un po' il segnale, guarda un po' il segnale, mi interessa, guarda un po' il segnale. Nato lì per andare nella banda sopra oltre il 40 devi andare nella banda F, tu devi andare nella banda F, nato lì con Omega Force, mentre lui invece deve andare nella banda E, perché lui sta modulando nella banda D. Mi viene lì se gli si, e gli deve andare anche per lavare la mano, poi sicuramente gli viene più tirante, no? E quindi lui tira quella mano di una banda su e non c'è problema. Andare sui 45. Ehi, vai tranquillo, tu devi andare nella banda F, ok? E sali, perché c'hai bande in più. Lui deve andare nella banda E, E. E lui adesso sta modulando la banda D, canali normali in quella radio sono banda D, capito? Invece tu sono nella banda E, i canali normali. Per salire devi andare nella banda F. Tranquillo, tranquillo, è così. Sempre dalla regia, sempre lo stesso proprietario di quello. E quindi già lo sa lui. E beh, ce l'ho avuto, è chiaro che mi sta ascoltando. Mi ha mandato un messaggio. Va bene, va bene. Dove sei arrivato, genio? Praticamente a casa, là, diciamo. Bene, arrivi, veramente bene. Santiago 8, quasi 9, radio Super 5. Posso che sono troppo forte al bordone, sono troppo forte, non c'è niente a fare. Oggi bene, veramente. Va benissimo, hai beccato tutto. Poi anche Antonello, ecco, la modifica che ha fatto a quel microfono è a posto. Beh sì, grazie anche ad Antonello. Bella modulazione, bella aperta, bella amplificata, bella chiara, bella tonalità, sì, vai bene, vai benissimo. Attento Marcolino, Marcolino. La l'antenna a centro capota, magari da Massimiliano. Oh, sarebbe grato. Io sono arrivato. Aspetta, Fortunato. Ciao, ci sentiamo, aspettate un attimo che sta chiamando Fortunato, voglio vedere un po'. Fortunato, come sei? Già ti sento. Se sei salita di Sirio, già arrivi. Ma insomma già arrivi. Tu mi senti, ma com'è? Però io ti accoppio a te. E adesso stai prendendo il decisore, non arrivi più Fortunato. Ma io avvicinati e poi richiamami. Avvicinati e poi richiama. Avanti, Natali. Ehi, dimmi. Riprendi. Stavo chiamando a Marcolino, ma non c'è. Sarà addormentato questo Marcolino Conde. Avanti, Giuseppe. No, non è a Macomer, è a Sirio. Non è a Macomer. A me è sentito da Macomer, però io non lo sentivo. Ehi, a Giuseppe. Avanti, tigre contro tigre. Io di amici ne aggiungo un po' qua. baciare ancora. Ok. Allora, vediamo un attimo. Ora, ora. Allora, zona è tutto chiuso. Vedi un po'. Mettilo a 1, inizia da 0, mettilo a 1, ti dico quando va bene. Maria, non sento niente, sono proprio a Sassari 2, quindi immagina. Va bene, io non tengo nulla, né Sassari 1 né Sassari 2, c'è Splatter che lì vicino alla Tadoce, Matta di Capito. Perché ci avrà la 48 per forza, già lo so io che gli sarà in piazza. Almeno non è problema, dai. Già, fatta vedere vicino al vicolo, così vedi l'antennina, dai. Già, sta là, la sta lì. Vedi l'antennina mia. Io bacio che dobbiamo sembrare una vanna. Dai. Vabbè, già ho fatto la fotografia, gliela faccio vedere con la fotografia. Già, dimentichi, sta chiamando Lacchi. Dai, già ritorni qua, fortunato. Sente una fortuna che in macchina alla Teroce c'è gente negli altri canali e lo stanno sbratterando. E anche io sono in copertura però. Sono dietro Monte Oro, Ah, per quello. No, quello io ti ascolto, non c'è problema. Va bene. Sandro, vuoi qualche altro controllo? Passo. Una tensione binario 10, cambio. Cambio. Ma è qua una carina, qua una truffa. Attento, Gianni doppio russo, il cuffi il grande modulatore, guarda. Ma che ho finisci anche i vigia, ma parcheggiato di sì. Ma si sente e come? Cambi. Cambio. Mio effetto elicottero, si sente, cambi. Che ti sta chiamando. Dani. Oh già, ma non mi intendi? Se non ti rispondo così, non ti saluta pure a me, non mi rispondi a casa Maria Volpi. Sì, ma non se ne può andare da lì. E poi bisogna vedere che sta andando lì, capito? Fortuna non ti accoppia, non intende mai che a me. Oh Claudio, ma sta lo dire, fa questa. Eia, stava manovrando un microfono. Sandro, guarda che c'è Lucky che ti chiama, Sandro, manovrando un microfono sta anche lui. Tutti in affarati, sono fortunato. Ok, sì, lo sento. Benissimo, fortunato Lucky, corrotore, se non che tigre che ti super salute, cambio passo. No, non intendo a te. Fortuna, mica ti ha risposto Sandro. Sandro, tutto qui, anche se io ogni tanto ti intravedo con la tua piccola barra, la piccola barra, però non posso, qualche volta ti ho strombazzato, però evidentemente non è riconosciuto. Comunque super salutoni, fortunato. Avanti, la città di un garraggio. Ehi, Massimiliano, dai, un attimino che sto chiudendo il suo microfono. Sì, ma devi abbassare un altro pelino, Sandro. Vediamo un attimino. Ora, ok. Ok, ora. Va bene così? È più accettabile, va, così è più accettabile. Avanti, capo di Puglia. Ma lasciarlo così però, non fa ok, ok, a quello minuto lascialo così, se no non si capisce niente, sa, va in distorsione, capito? Tutto pipparinato. Boh, io pensavo che ero io che lo ascoltavo così. Ho rimesso il 60, ho rimesso, Il 60? Allora Mickey Gain alto usi, non lo so, anch'io c'ho 60, c'ho il Mickey Gain del 440 a 1, uno un pochino più su, neanche 1,5, processore slitto, però non distorce, evidentemente tu gridi, non lo so. Grido, ma allora il Mickey Gain ce l'ho, il Mickey Gain figurati ce l'ho sotto l'1. È sempre il discorso di quanto hai l'impedenza del microfono e sei in posizione amplificata. Io ce l'ho in posizione in 50K, Mickey Gain a 1 e processore inserito, non lo tocco mai, sempre così è. Non l'ho toccato io da ieri. Ora, ok, guarda, adesso è in a 8, poi vediamo un attimo. Ok, adesso in lascialo così, cazzo, era cambiato. Lascialo in cazzo, stai sempre cambiando, devo toccare sotto. Lascialo in così come sei adesso, non toccare niente. Sembrava che non aveva amplificazione. E se c'aveva il microfono chiuso, cazzo, lo tieni in out. In, lascialo in come ieri, non lo toccare sotto, sotto tu non devi mai toccare. Regolati solo, il Mickey Gain e basta, boh, finito. Vabbè, da ieri l'ho regolato in linea, l'ho lasciato così, adesso ho fatto un passaggio giusto per farti vedere la differenza, vabbè, lasciamolo così. No, toccasi, lascialo così che va bene adesso, regolato benissimo alla grande. Avanti Massimiliano. Ehi, allora, positivo. Oh, sa, quando ci vediamo già ti lo regalo io un paio di tubetti di quell'Attac, anche che costa 6 euro, però almeno. Sarusi, non toccarlo più, che tanto se aumenti esci più male, capito? Adesso la posizione giusta è questa, telefono, riprendete. Ehi, vabbè, no, è perché stavo facendo delle prove. Avanti, Nattarino. È inutile, io ci voglio perché la parecchio. E tu io. No, esce bene, Sandro, esce. C'è una bella voce scusante che magari ha toccato, capito? Perché ieri sto facendo altre prove, quindi l'ho aumentato troppo. 4,40 non deve superare l'1 di Mickey Gain, se no distorce, capito? Processore inserito, amplificazione MC60, 50K, quella la regolazione sua, non c'è da fare. Infatti io più di non l'avevo mai salito, perché lo sapevo di distorcere. Solo quando vai in banda laterale, la alzi per dargli la potenza. Il 4,40 è così, mentre il 4,30 lo posso portare anche a 2, a 3, aumenta l'amplificazione ma non distorce, per quello che mi piace quella radio, è favolosa. Però ogni tanto si spegne, c'è qualche falso contatto, quindi non voglio rischiare, la sto usando poco e niente. Capito? Devo mandarla da Bianconi a farla tutta revisionare come ho revisionato questa. Così sono più sicuro, perché non so che falso contatto è, non vorrei che succedesse qualche danno. Come scalda, un pochino si spegne. Vabbè. Però come superiorità non ce n'è, 4,30, 4,40, e vado a vedere sia come ricettore che come trasmettitore. Molto più selettivo, le modulazioni, perfetta quella radio. Vecchiaia, anche lei ha detto basta, lasciamo a riposo, era poi mi lasciavo a piedi, perché è molto vecchia come interno, nel senso che i componenti sono stati usati tanto, capite? Questa è una delle prime che ho avuto io, anche se è nuova, fiammante, eternamente, però internamente è già la pressione, capite? L'aveva detto, i componenti sono anche le pite, si vedono, sono già consumate, fatte, insomma. In prossimo ci siamo fatto contatto di alimentazione, non voglio fare più danno. Mi affianco al 440, è accesa sul 45 pronunci antenna. Se non parli, che non scalda, rimane sempre accesa. Se invece vai a parlare, dopo una mezz'oretta, boom, si spegne. O va in protezione, non so cosa c'è, bisogna mandarla da Bianconi e farla revisionare, capito? Benemera, Massimiliano, telefono, Sandro, Gianni, tutti i pariti, Gianni. Tutti i pariti a Viso, perché ho visto che non lo sganciavo, era spento, è in macchina col figlio. E te bada. Non so che sei, Massimiliano, Bulldozer, Caterpillar. Lascia stare il telefono. Andiamo indietro, cosa ha detto? Stava scendendo, non lo sento più. No, non ho detto niente veramente, evidentemente perché non c'è stato il tempo che lui poteva parlare, è stato tutti i passaggi. Magari farà due, beh. Non lo saccio. Non più lui, sì. Nella fine. Ma quindi una cosa non è entrato, Ma c'è un tanto Marco, vuol dire che è uscito il giro. Ma no, ma sono anche un baracchino. Ho si è dormito mentre la Clarice è uscita dall'otto. No, ma sai, sono già le 7:30. 13 minuti, ma che faccia buio, tanto mi preparo. Mi porto il cane a fare un giretto, capito? E poi spegniamo tutto. Baracca e baracchini. Ho ripreso, Ehi. Che è rimasto, Cla? Sì, è Natalino, Gianni non risponde, Sandro non c'è. Va bene, va. Tutto a posto allora. Casino. Io. Vabbè, Gianni, poi Gianni se non si ne muove su 48. Sì, vabbè, già ce ne sono. Già ce ne sono baracchi. E oggi tutti omologati, so. Sì, vabbè. Io in macchina, sono da un po' di tempo che non la metto. KK. E che attendino è? Uno di quelli della Midland, che sembra quello che dice del mare, ci vediamo in macchina, il Focus, e ti piacciai, e da cui fanno i cindì. Ma no, va bene, tanto, io sto per fare una chiacchiera in Italia, va bene. C'è un antennino piccolo, sembra un antennino di macchina, di radio, va più bene, va, capito? Che cosa, ma sì? No, dico, dice, la PLC 800 è troppo grande, ho detto, se c'ha un antennino piccolo va più bene, che così, per fare una chiacchierella così in città va bene, capito? Un antennino 60-70. Ho capito, cazzo, ma non apre la porta della Torino, si porta dietro e manda laterale, ha d'accordo te ne sicuro. Claudio, ma la risione alla dei bussilosi che vai. Ti ho sentito, ho capito, ma non apre la porta. E tanto visto che non hai compreso, se hai capito o non hai capito. Quando apre la portante natalino, si porta dietro le bande laterali. Sì, boh. No, sto ascoltando anche 10 metri. Stavo facendo girare un po' il rotore dell'antenna, anche se non lo senti, non sta girando, capite? Non so che metta l'ordine in tutto. Era giusto per far andare un po' il motore, capite? Sotto quella posizione, così è troppo, così bloccate io. Eccolo qua, bloccate. Via. Cioè, manda a te cosa vuol dire Massimiliano? Che senti qualche fruscio? Sì, guarda per la natalino, no? Che sta modulando. Si porta dietro qualcuno che c'è in banda laterale di qualche altro canale. Mm. E io non sento nulla qua. Lo senti più magari, non lo so. Perché mi senti dietro le bande laterali, perché non le bande laterali. Sentito la cla? Sì. Le bande laterali sotto non le sentite? Non lo so, ma c'è qualche radio accesa e non sento niente. Oh, forse il mio barattino, devo dire io. Quando parlo io sento qualcuno in banda laterale. Tu nulla senti qua. Adesso no. Sì, bravo, adesso no, adesso te lo dico io quando lo senti. Aspetta che sarà tanto rispetto. C'è un amico tuo vicino. Tu prendi a tutto un paio, è ovvero in 10 metri. Ah, allora lo dico io. Aspetta, c'è un po' più di sì. Infatti sentivo quando. Però solo quando parla Natalino, se lo porta dietro, mi capito? Perché il segnale è basso, capito? Sì, è il tuo vicino. Il tuo vicino sta fermentando 10 metri, per quello lo senti. E lì sono andata lì, allora non sei tu, no, è il mio vicino di casa. E chi fa, chi ti va, guarda, tra te, 10 metri, gli auditi. Sì, tre buoni sono in trasmissione, se non so quattro. Adesso che ha parlato l'attarino c'era di nuovo, hai sentito? Sì, già, sono anche da voi, ma non te lo dico. Non posso dire qua, capito? Comunque 10 metri, quindi. Che cosa mi dice? A me non lascio un radio a cucciaio, quindi. Cosa mi dici? Non ti dico niente. Però 10 metri. Adesso c'è il dottor Fermo. E adesso non spiego tutto, sto messo 500. Che ottengo sempre lì, 510, 0, ecco qua, un po' mi vedete, guardi, 14 marce, ecco qua, perfetto. Va bene, mi sa che c'è un paio di giorni di ferie. Tu in ferie sei clavo, stai lavorando? No, sto lavorando, sono uscito alle 5 oggi, Massimiliano. Il cardellino. La Coca-Cola Massimiliano? Dimmi. Ok, vediamo un po'. Allora, vediamo un po', com'è questa lavorazione? Poi ti dico che cos'è. Non mi piace, te devo dire la verità, non mi piace. Sei un po' compresso. Allora, compresso, ok. Tempo al tempo, ok. Così va meglio? Così va meglio, prova a parlare appena appena più distante dal microfono. Ok, dal microfono sono circa, come le posso dire, 20-30 centimetri. Ecco, così va già meglio. Ok, dai, questo è il Cobra. Bella modulazione, lì. Certo, vai in radio scatola, ragazzi, con i dratti, boh. Ok, dai. Va bene, dai, che abbiamo abbinato l'MDB5, lo porta bene? Per me è una buona modulazione, per me, poi per gli altri non lo so, per me adesso così, parlando piano, va benissimo. Per voi, Claudio, come? Cazzo, dico sempre che una reccia alla triloghi, grazie, boh. Chi è che vuole controllo? Tu o Sandro? Sandro. Prova. Ok, vediamo un pochettino, dai. Vediamo questo Cobra, come si comporta. 5. Dai, lascialo perdere a Claudio, dai, te li do io a controlli, va. Sta facendo le orecchie pelose da altre parti, quindi non è attento, va. Bella radio, puoi aumentare Mickey Gain ancora lì, o Sandro? Posso aumentare. Allora, vediamo un po', no, ci ha aumentato un altro po' il volume. Così ha migliorato parecchio. Ok, ti posso aprire il tono per vedere un po'. Ecco, adesso ho aperto un po' il tono, com'è? No, chiudilo tutto quello. Va bene, lo chiudiamo tutto, va bene, chiuso. L'MP5 come ce l'hai a coso? I toni e il volume del microfono. Allora, c'ho il tono che è tutto chiuso, il volume del microfono è quasi a 2. Prova a metterlo a 2.5. Ok, 2.5. Vai, aumenta a 3, perché è una bella sta modulazione, aumenta a 3. Ok, adesso te l'ho messo a 3. Chiudi leggermente il microfono, vai, il mic della radio. Allora, chiudiamo leggermente il mic della radio. Top, va bene. Una bella modulazione, cioè, fulsinoso. 9.15 stai arrivando, non so se c'è qualcosina, però 9.15 è il tuo segnale. Beh, vabbè, considera che adesso sono a manetta. Mettile il beep. Ok, ecco il beep. Prova a metterli appena di eco a vedere cosa succede. Ok, mettiamoli a calè, va bene. Ma così sia minimo. Che cosa minimo? Il lecca. Sì. Minimo, guarda. Cioè, se parli così, leggero, va bene. Se inizi a parlare troppo veloce, ti si accavalla. Vabbè, va. Piano, piano. Vabbè, toglilo un attimo che ti voglio far fare un'altra prova. Ok. Allora, fammi vedere una cosetta. Allora, adesso siamo a minima potenza, Fissura. Adesso sono a 5 watt. Allora, qui fai da 9 a 9.10 picchi di modulazione in positivo. Oh, secondo io mi preparo che devo portare il cane. Vai, alla giorno in discendente, vai. Ah, portare il cane, tornando, vai a tutto bella. Vai, leccati la pisella, vai da Pippo. Ehi, a dopo là. Allora, vediamo un po'. Aspetta che cambio strumento. Però togli l'eco, Sandro, toglilo l'eco. Ora. Ehi, quasi a 30 sale, modulati. Però, sa, ti devo dire una cosa, tu hai aumentato i watt e ti ha leggermente, leggermente mangiato la radio, invece con 5 watt la radio era molto più robusta, molto più bella. Allora, Coca-Cola. E c'hai anche più picche così, sicuramente con 5 watt arriva molto in alto come arriva quando aumenti, giusto? A voglia, superai 30. Allora, adesso abbiamo 3 watt, e con 3 watt di portante modulati passa i 30. così c'è anche una bella radio, lo sa. Prova a aumentare un altro pelino il microfono. E aumentiamo. Ok, aumentiamo il microfono, un attimino. Se non gridi è bella, se no devi abbassare un pelo. Ok, la lasciamo. Sì. Bella, così è una bella modulazione. Sì, è bella così, lasciala così. Vero Claudio, è bella, no? Sì, adesso è regolata a me. Adesso c'è una modulazione spettacolare quel Cobra. Un bel barattino quello. Ok, va bene. Allora lo lasciamo in versione massa. Non lo mettiamo in versione alta, no? Non c'è bisogno. Cosa c'è bisogno? Se contravvate supera i 30, cosa vuoi di più? E di supera. Sì. 3 watt, portante multa. Va bene. Ma scende ancora quello oppure rimane a 3 watt? No, adesso è tutto a 0. Meno di 3 watt non scende. Meno di 3 watt non scende. Perché c'è la versione 3 watt e poi non mi ricordo. Ma io l'avrei lasciata così con 3 watt, c'è una bella modulazione, poi un bel segnale, picchi belli di modulazione, io l'avrei lasciata così. Non l'avrei sfruttata più di tanto. Ok. Allora, questa è la seconda versione. Seconda versione, 10 watt portate bianca, sempre quasi 35 modulati. Ma vedi, sì, è bella la radio così, però con 3 watt è meglio secondo me. Perché tu con 3 watt ti stai portando su più o meno i watt che c'hai con 10 watt, capito? Sfruttando meno la radio. Sì, questo sì, me ne accorgo io dallo strumento. Me ne accorgo dallo strumento che con 3 watt sale anche con l'altra versione, però con 3 watt lo fa andare molto di più. Io me ne accorgo qua dai picchi di modulazione, capito, lo sa. Allora, con 3 watt sì, 9 spaccato a picchi di 9,10, 9,15. Con 10 watt fai 9,5 e 9,15. Quindi più o meno i watt siamo lì, dai. Non cambia niente, dai. Non cambia nulla. Va bene, no, lo lasciamo così allora, dai. Non c'è bisogno di farlo lavorare a massima potenza. Positivo. Vediamo un po'. Natalino, senti a Sandro. No, negativo, dai. Tu non l'hai sentito a Natalino, vero, sa? No, non lo sento io qua a Natalino. No, Natalino da parte mia proprio nada de nada. E io con la sua bacio di lì, poi lascia piazza tutta, va a vedere che piace. Ma in che zona rimane più o meno? Più o meno rimane in zona mercato, to. Zona mercato? Sì, zona mercato del pesce. Ah, ho capito, zona bassa quella lì, Sì, non ti credere che sia molto bassa, mi. Lui adesso è perché c'è questo antennino fuori così dalla finestra, ma se lì mette un'antenna sul tetto, da lì schirrieggia. Allora sì, se mette qualcosa sul tetto allora riesco a sentirlo. Stazionare zero, va bene. Stazionare la VG sempre però, non in PEP, Giovanotto, ricordatelo. Non ho capito, che cosa? Ho detto ricorda fatto la cresta azionaria con quel rosmetro che c'hai tu, sempre in AFG vogliono controllare, non in PEP. È normale, no? In PEP là non ti si muove dalla stazionaria, ma si vede. Buono, buono, buono, anche io sono così, non ce n'è, stazionario io non ne ho. Va bene, vediamo un po' se Claudio ha ripreso o se ci ha portato giù a Pippo, e Claudio va a segnalare su il buco, anche lui, bu. No, ha detto che andava a portare a Filippo. È Gianni lo più brutto che fine ha fatto. No, ho sentito, dice che era... Evidentemente sta facendo qualcosa a Sassa. Ma cosa Natalie? È bella, bella, ma bella radio fa. Io c'ho uno di quel cavolo di Intec, quelli palmari amplificati, quelli che hanno la rotella, veramente gli si antichi. Però ci vuole una capsula a casa, ne ho messo una capsula un po' così e non lo fa tipo barattoloso. Quando metterci una capsula buona lì. Non so se funzionano bene questi microfoni, poi sono degli anni 75 forse. K-Rosmetro, dai, io momentaneamente vi saluto, mi allontano, vado a fumare una sigaretta. Tanto voi due non vi sentite, là. Rientro al volo, mi fumo una sigaretta e rientro al volo, là. Ciao Sandro, ciao Attalino, chi fosse in ascolto, un attimino mi allontano e poi riprendo. Ehi, va bene, dai, se no ci sentiamo alla prossima, bye bye. Tutto, no! possibile. C'è tutto di roba, è strano. Ma forse 5, 6, non è morto. Giovedì o venerdì, adesso vediamo. mattina sto lavorando, se no bisogna aspettare la domenica, ma penso che tra giovedì e venerdì sia piazzato tutto. Allora, non lo so registrare, attivo e molla. E da fare si fa. Capito? Subito dopo pranzo alle 3 si va e si fa, intanto non dobbiamo trattare, non dobbiamo fare niente, rumori non ne dobbiamo fare. E quindi facciamo tutto quello che c'è da fare. Dovrebbe passare in mezzo tra Monteoro e Monte Alvaro, a quanto ho visto lassù, capito? Dovrebbe passare in mezzo, lui è. Se c'è Monteoro non si può spostare né Monteoro né Monte Alvaro, non lo so quello, però penso che riesca a passare per Alghero. Sì, c'è uno di Modena che viene alle mostre, ce l'ha. ciao Giuseppe, ciao anche Gianni. La prossima mossa con lei, la... si diventa il costanese? Che cosa? Come la stai cercando? Sì, quella che c'è a Macomerta, lo stai dicendo. Adesso c'è Macomerta e Urbia. Cos'è Urbia? Ce n'è una Urbia, ce n'è una, ma aprile è molto... aprile e maggio sono molto ricchi di mostre. Ma lì ce n'è una a Macomerta, ce n'è una ad Urbia, poi a metà maggio, il primo maggio mi sembra che ci sia quella di Alghero, a Mariotti, poi ce n'è un bel, ce n'è un bel, ce n'è un bel. No, io vado a Oristano, ma com'è, perché c'è quella proprio dei bulldog inglesi, capito? C'è una mostra solo per bulldog inglesi. I bulldog inglesi è simili, quindi praticamente la razza dei molossi. Ecco, no, perché c'è una, c'è una lezione, io sono anche io, mi affido c'è il cavecolpo, è il 30 di questo mese, il 30, dovrebbe essere l'unico se non sbaglio. Ristano abbiamo fatto, ma come abbiamo fatto a scala, quindi ci dovrebbe essere il 30 di questo mese in Namibia, e dopo ci dovrebbe essere qualcuno in ottobre al 2, se non sbaglio. Sì, sì, c'è anche quello di Alghero, ma tu puoi partecipare col cane corso. Quella di Macomer, capito? Puoi partecipare, perciò non c'è problema. Bulldog inglesi come categoria, la categoria dei bulldog inglesi, da 1 ai 5 anni, da 1 ai 5 anni, e poi i simili, quindi gli altri molossi. Però la prima categoria di che sfida è quella proprio solo dei bulldog inglesi, capito? O per meno, per meglio dire, bulldog inglesi e bulldog francesi. E poi ci sono, sfidano come secondi e terze categorie, sono i molossi e simili. Esatto, esatto, io vado il 30 questo mese, vediamo, la Udoro adesso, se non sbaglio, ho fatto già l'iscrizione di tutto quanto, e perché c'è il cane corso, c'è un mese, e ho entrato, ho fatto un film, ho già notizie di film, e la settimana scorsa, giù vicino al Tempio, che stanno girando la Radio, e il sequestro di Fabrizio André. Ho fatto quattro giorni, sono stato il cane corso, con le mie figlie, la madre, il padre, tutti i cani corsi. Tutto qui, avanti Giuseppe. No, Gianni c'è, già. Sì, dai, saluto Marino, dai, anche se non l'ho mai sentito, il 27. Lo saluto cordialmente, ben entrato. E comunque ci conosciamo già. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, ma io la riconosco bene, dai, ok. C'è anche Giuseppe, perché è strano, se non sbaglio, no? Sì, sì, Giuseppe, lo senti a Marino? E quello che ha salutato, avanti. Io sono, dai, la famiglia. E infatti arrivi un bel sparato qua. Stai, mi stai meravigliando, se sentite una risposta, è impossibile. Tutto qui, avanti Claudio. Ma lo senti a Natale? Oh sì, stai una risposta qua. Stai, stai venendo un nuovo, E c'è un'antenna alla macchina, aspetta quando montiamo quella grande, mi senti a mano. C'è una bella posizione, Natalino, sembrava così, ma... Buona, gappa. Sì, ma lì comunque puoi partecipare, perché quando io vado ci sono sempre i cani corsi, capito? Ci sono. No, questa volta Filippo deve crepparli tutti, la volta è entrato secondo, a mano me. Questa volta deve entrare primo assoluto, se no mi rimagno un gabbo, mi rimagno. Se mi lavora, mi metto un capo. Signori, se mi vedi che mi metto un capo, dai un coso, un cavallo. E c'è appena fatto i cinesi, lascia. Un cavallo, se la vedi, non è stessa. Benissimo, avanti, Gianni. No, io già sono un piccolino, là. Mio già non è tanto grande, perché sennò in casa non lo potrei tenere. Il poverino, va bene, io dai le fuori. Io dai le faccio la campagna, dai. Già non ho riservato. No, la carina non ho visto che non sono restando dove ti è stata, o Claudio. Ripeto, stavolta sono passato dall'inizio col camion, vedete mio collega, prima di quanti minuti ci mettiamo il camion nel piccolo, vediamo Claudio con la scala, la sua estate, che sta intorno a una fatta io queste delle cose, non mi sono passato, non mi aiuta, poi ho fatto un film appunto una festa, avanti Claudio. No, ma noi abbiamo detto, dovevamo piazzare, siccome il materiale non ne avevamo, adesso ho ordinato tutto, dovrebbe arrivare domani, quindi tra giovedì e venerdì è tutto piazzato. È stata piazzata l'antenna della macchina fuori, capito? C'è l'antenna della macchina fuori, perché prima ce l'aveva dentro casa, adesso è fuori. E quella aveva la possibilità di arrivare bene. Arrivano 10 qua con l'antenna della macchina, fidati con quella grande. È una bella zona quella, Marino, io mi ricordo che lì si usciva bene, era una bella zona. E perché pesce Filippo c'è la piccola a testa. Già mica questa settimana è un pochino a dieta perché era già 38, però se va fuori peso non me lo fanno gareggiare, deve essere intorno ai 36 e mezzo, era 38, quindi un po' sta mangiando un po' meno, un fatto solo, capito? Infatti è sceso già a 37, adesso deve scendere altri 500 grammi e poi peso forma quello per fare le gare, se no non glielo fanno fare, ma l'hai capito. Sì, adesso, se la situazione c'è la dieta, sta mangiando un po' più fine, la dobbiamo mangiare proprio a dieta, non lo sai, che noi siamo sempre fame, dove mangiano? Poi sto presente a me 65, 67 kg, e c'è appena 14 mesi, figurati. C'è il padre, il padre pesa quasi 78 kg, è un mondo il padre. Il padre ha girato, il mio figlio gioca con la resinera l'anno scorso, figurati. Il padre, è un mondo il padre. Ma che bello, carino, lui sarà un tenore della macchina, per fatta. Ma lei sa un carino, una cosa, se si vede il punteggio, io c'ho un po' di elementi di punteggio, c'è la scala tutta quella a sinistra, il giro di elementi, se ne serve, basta scegliere, la prendi e poi la risposta, non c'è problema, capito? Non c'è altro. Ehi, già. No, ma io ho fatto una modifica, capito? Abbiamo deciso di fare la modifica, non ce ne serve scala. Ce ne serve scala, abbiamo fatto andare la testa, capito? Si cambia la staffa, si mette più bassa e si lavora con la scala piccolina, no? Non ce n'è problema. E quella che c'è su in alto, quella mi serve per far passare il tubo a fianco, la metto una staffa palo, in modo che sia ancorata, capito? Non ci sono altre soluzioni, così viene un bel lavoro e non serve la scala. Se lui infatti non fa ragionare la testa, ma se fa ragionare la testa non ce ne vuole di scala, devi solo studiare bene come montarla, noi l'abbiamo studiata, allora la staffa che c'è sopra non ci serve, ne mettiamo una bassa altezza finestra e poi tiriamo sul il telescopico, capito? E ci accoriamo a quella che è in alto con una staffa per palo, capito? Una saletta mio marito. Ah, ok, no, va bene, dopo fare va benissimo, intanto è stato il maestro già mollato, quello che c'è, se non sbaglio c'è stato lo chimico, se non sbaglio, già va bene, legge il reggimento, deve fare, se c'è stato lo chimico, se la fare ormai si fa tutto. Bene, Claudio, in questo passaggio vi saluto, dai. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Natalino, ciao anche Giuseppe, se mi stai ascoltando io, faccio pure sì. Se mi sei d'accordo, basta fischiare, guarda, per me, ti ho detto anche altre volte, la proteggio, devo iniziare, ce l'è. Ok, Claudio, mi prendo le cure, vedi per me, anche. Ehi, Amari, grazie, dai, se ci serve qualcosa ti faccio un fischio, tanto c'ho il tuo numero, ok. Ciao, grazie per essere entrato a salutare. Ciao, addio, Natalino. Sì, Ti ascolto benissimo, vai tranquillo, ok, nuovo, ciao a tutti. Ti ascolta 8 e mezzo, quindi a voglia che ti ascolta, a ottava, io mi sto, va bene, ciao Marie di nuovo, alle prossime, Gianni è rientrato, ok, Giuseppe è andato a papai, va bene, vai essere Natalia, capito, vai essere. Non è che non è che Cioè non ho capito la mappa di dove. Ah, 10 metri? Beh, quell'antenna già risuona. No, anche io stavo ascoltando, giro tanto l'antenna, sentivo anche quello che era Pedro, abbastanza bene, 5-6, 5-7, però poi devo portare il cane, sento tutto, io ascolto solo, ma per non entro più da nessuna parte, però ascolto e faccio le comparazioni, nel senso che vedo quanto ascoltano gli altri e quanto ascolto io, no? Vedo i segnali per fare comparazioni delle antenne, se la ricezione è buona, eccetera, eccetera. E mi sentivo tutti i corrispondenti, poi mi sono spostato in 20. C'era un bel po' di problemi, una pece col cartello acceso, però ti ripeto, non mi interessa. Va bene. No, beh, Massimiliano, se c'è il padrino d'azione, è chiaro che lo sente, soprattutto quando c'è un'antenna girata verso di lui. Ehi, no, stavo parlando con mia moglie. Sì, va bene, è normale, no? Non è quello il problema, però adesso di quando metti l'antenna, mi bomba. Ma ok, no, ma anche Salvatore c'era, per caso. C'era anche Salvatore, quello di San Francesco è molto vicino a te, quindi sì che ti stava tratterando lui, Dio, avevi qualche disturbo. No, beh, i corrispondenti non mi senti, puoi sentire i locali, ma i corrispondenti non mi senti, sono c'è le direttive, poi 10 metri. Com'è? Il segnale più basso era quello di Pedro, era 5-6, 5-5, 5-6, 5-7, gli altri erano molto più forti, però poi ti ripeto, ho spento tutto e sono visto col telecamera, non lascio mai niente acceso, faccio solo questa, ho spento tutto un montatore d'antenna, non sai che sta facendo, ho fatto il nome giallo, sta diventando il pomello del commutatore duro. Lo muovo, per quello mi sto cambiando ogni tanto le antenne, capito? Sto commutando. Sto diventando il commutatore della mezza, un duro. Non so. Quando non funziona più, ma sta lì, viva Gesù, ha condotto, si è condotto l'uomo, l'unico cavo come ci avevo prima, e via, di certo non ho detto spendere altri quattrini per queste cose, capito? Va bene, dai, è pronta la cena, ti saluto, sono 9:20. Santa Pignano non si è sentito per niente, no? Grazie, contraccambio. Fammi sapere domani se c'è novità, hai capito? Anche domani mattina se ricevi qualcosa, infatti io sono al lavoro, ma il telefono ce l'ho sempre appresso, capito? Mi mandi un messaggio su WhatsApp, no? E mi scrivi, è arrivato tutto, così iniziamo a organizzarci, va bene? Ciao Genio, buonasera. No, Natalini, se hanno spedito lunedì, sono in consegna mercoledì mattina. Capite? Mercoledì. mercoledì mattina. Se poi ci sono problemi te la possono consegnare mercoledì sera, ma penso che quella zona lì la facciano di mattina. A Sassari consegniamo la mattina. Cos'è? GLS, Barturini, cos'è? Non lo so, con chi spediscono una tarita, l'hanno detto. Se c'è un ritardo non sai a chi ti rivolge, tu devi ricevere domani, 3 giorni sono domani. Dire, con chi spedite? Lui ti diceva con SDA, ok, allora quando spedite mi mandi un'email con il numero della spedizione, capito? Ciao a tutti.